I genitori musulmani che si sforzano nell'adempimento del precetto coranico mettono a profitto l'insegnamento del profeta Muhammad, che Dio lo benedica e la in gloria, il quale disse: un granello di precauzione tiene lontana la necessità di ricorrere a una montagna di medicine. Questo granello di precauzione è l'insegnamento familiare fatto di parole e di buoni esempi. È infatti con l'insegnamento orale e con l'esempio, nei tempi e nei modi opportuni, secondo le capacità di interiorizzazione del bambino, che i genitori formano in lui, durante la sua crescita fisica, spirituale e morale in seno alla famiglia, la consapevolezza di una precisa identità, sicché quando egli entra nell'asilo o nella scuola elementare ha già una solida coscienza della sua diversità culturale, religiosa e morale dagli altri bambini. Quando questo primo obiettivo sia stato raggiunto, è dovere dei genitori di far capire al bambino che quando fuori casa udrà dire da persone non musulmane delle cose diverse da quelle che ha imparato in casa dai genitori o altrove dai suoi educatori musulmani, non deve meravigliarsi, perché tutti hanno diritto di pensare e di credere quello che vogliono. È molto importante introdurre nella mente del bambino il concetto del pluralismo islamico all'interno di una cultura pluralista, in modo da vaccinarlo contro la confusione delle idee. Ci sono diversi ayat nel sublime Corano nelle quali Allah esprime il concetto che se lui lo volesse, tutti gli uomini la penserebbero alla stessa maniera, e l'altro che nessuno può credere a quello che crediamo noi senza il suo permesso. A questo compito i genitori musulmani devono dedicarsi con sentimento di amore verso Allah per averli guidati, facendo loro prendere coscienza che nell'educazione dei figli c'è il mezzo di salvezza dal fuoco, fuoco che è l'esito infausto di chi trascura l'educazione islamica della propria famiglia. Quando la consapevolezza della essenzialità dell'educazione dei figli ai fini della salvezza dal fuoco è raggiunta, i genitori musulmani affrontano anche pesanti sacrifici, ben sapendo che nessun sacrificio sarà mai troppo pesante quando pensano che il venir meno a questo dovere educativo avrà per loro come conseguenza l'eterno fuoco dell'inferno. I genitori musulmani, compresi della loro responsabilità, sono stimolati alla formazione di una forte identità islamica nei loro figli, perché sono perfettamente coscienti di quali possono essere le conseguenze del fatto che i loro figli vivono 8 ore al giorno per 5 o 6 giorni alla settimana nelle strutture scolastiche di un sistema educativo nel quale l'insegnamento è finalizzato alla costruzione di una visione del mondo diversa da quella islamica. Essi sanno che i loro figli sono esposti ogni giorno a concetti, idee e comportamenti che nella loro qualità sono per lo più in contrasto con gli insegnamenti del sublime Corano del profeta Muhammad, e questa consapevolezza li spinge a costruire nella famiglia un ambiente islamico esemplare per i loro figli, per alimentare in essi la ricerca della propria identità attraverso l'imitazione dei modelli di comportamento esemplificati dalla condotta loro, dei parenti, delle persone appartenenti alla comunità islamica che frequentano la famiglia e che, ai fini educativi, devono essere preventivamente selezionate, ammettendo ai portatori di buoni esempi e tenendo lontano gli altri, chiunque essi siano. Così, la linea di condotta di questi veri genitori musulmani è improntata al sentimento base della fede islamica, in grazia del quale l'uomo ha coscienza che la ragione di esistere di ogni creatura è l'adorazione di Allah. Essi insegnano ai figli che adorare Allah significa ringraziarlo di tutti i benefici che da Lui ci vengono, compiendo le opere buone che Egli ha ordinato di fare, non già per il suo vantaggio, ma per il nostro.